Per tuo padre faccio la previsione, ma va a far culo, vai, perché funziona il telefono. Sta dentro al telefono qualcosa, coglione. Beh, allora.